ripetiamo insieme. Gianna sosteneva tesi e illusioni. Pappara, pappara, pappa. Gianna prometteva pareti e fiumi. Pappara, pappara, pappa. Gianna aveva un coccodrillo ed un dottore. Pappara, pappara, pappa. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Pappara, pappara, pappa. Stai ascoltando Radio Transizione di Fase. Thank you. appoggiato alla sua balaustra, dopo aver passato le sue notti al lume di candela, e sempre, solo esclusivamente perdendosi nel suono di quelle onde che si infraggono sulla scogliera posta alla base di quel faro, che oggi finalmente è riuscito ad accenderla per permettere di perdere il proprio sguardo in quell'infinito del mare buio, in questo periodo così piatto out of the shell si immerge nei suoi pensieri. Cantando canzoni d'appartamento, come una bestia in tana, mantengo cauto l'appostamento. Nessuno parla dentro me. arcangeli, non con le buone. Parlate di vita, ma ci vuole la vita per amare la vita. Out of the Shell è un delirio indipendente e di intervento sociale. Giorno per giorno di un'esistenza, perché per quanto continui a vivere, per quanto la tua esistenza biologica ti permette di andare avanti giorno per giorno, ti rendi conto che un semplice insignificante pensiero, nel momento stesso in cui viene espresso attraverso una metabolizzazione, una presa consapevole e cosciente posizione, allora al giorno d'oggi questo pensiero non può che essere un delirio. mente perché ogni concetto di libertà ha in sé intrinseco il concetto dell'indipendenza. Lo è perché non lo può fare a meno, perché essere indipendenti significa essere liberi, significa non star sotto a niente e vedere e rapportarsi con tutto ciò che ti circonda con un senso di parità, sia esso più grande, più importante, più famoso di te o se qualcuno te lo rappresenta come qualcosa più inferiore di te. Esiste solo nell'indipendenza, esiste solo l'uguaglianza. Per questo Out of the Shell è un delirio indipendente. Out of the Shell è, come piace definirsi, è un intervento sociale. È un intervento sociale perché è un piccolo granello di sabbia in un immenso deserto. O una piccola lacrima che cade in un immenso oceano. Quando, a secondo ciò che volete, questo immenso deserto, questo immenso oceano, rigido e caldo o fluttuante e a volte tempestoso, e tutto quell'equilibrio cosmico fatto di esseri animati che ci circondano e ci rendono parte di un infinito che forse nemmeno noi compiutamente conosciamo. Out of the Shell fa parte di un grande contenitore. Questo contenitore che ha appena 4 mesi di vita, che già fa parlare di sé, ed è una cosa che colpisce tutti quanti noi. Si chiama transizione di fase, per cui i nostri deliri, il nostro modo di esprimere, il modo di esprimere di tutti quei bloggers che più che solo immagini, video, scelte, anonimi, mettono in sé del suono. Lo individuate e lo ascoltate attraverso www.transizionedifase.org. Out of the Shell ha anche il suo canale personale che è www.outoftheshell.it o www.oots.it. Visto che tutto si svolge su internet, sul web, su questo immenso canale di comunicazione. Allora, avete anche il modo come comunicare, mediatamente o direttamente. Mediatamente è ots@libero.it, che è l'email di Autobus di Shell. Direttamente dovete collegarvi con un orso, utilizzare il canale dell'MSN. L'indirizzo è car@hotmail.it, oppure, come piace a molti, car@hotmail.it. Conoscere l'odore del tuo paese, camminare in casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri, le strisce delle lumache nei loro gusci, capire tutti gli sguardi dietro agli scuri. E lo vorrei perché non sono quando non ci sei, e resto solo coi pensieri miei ed io. Solo sempre viaggiare, scoprire quello che intorno c'è da scoprire, raccontarti poi, farmi raccontare il senso di un rabbuiarsi o del tuo gioire. Vorrei tornare nei posti dove sono stato, spiegarti di quanto tutto sia poi diverso, per farmi a te spiegare cosa è cambiato e quale sapore nuovo abbia l'universo. Per il nuovo Istanbul o Barcellona, o il mare di una remota spiaggia cubana, o il greppe dell'Appennino dove risuona un albero di musate semplice tramontana. E lo vorrei perché non sono quando non ci sei, e resto solo coi pensieri miei ed io. Stare per sempre in un posto solo, per ascoltare il suono del tuo parlare, per guardare stupiti il lancio, la grazia e il volo, impliciti dentro il semplice tuo camminare, per stare in silenzio al suono della tua voce, parlare, parlare, parlare, parlarmi addosso, dimenticando il tempo troppo veloce, o nascondermi in due sciocchezze che son commosso. Vorrei cantare il canto delle tue mani, giocare contro un eterno gioco proibito, oggi restasse oggi senza domani, o domani potesse tendere all'infinito. E lo vorrei, perché non sono quando non ci sei, e resto solo coi pensieri miei. Ed io devo dire che guardo fuori dalla finestra stasera, mi trovo in enorme imbarazzo. Mi trovo in un imbarazzo folle, dovuto a una serie di cose. Praticamente è una settimana che praticamente Auto di Shell non si fa sentire. In parte il tutto è dovuto alla trasferta per l'interplanetaria che c'è stato lo scorso fine settimana, che ha comportato un massacro fisico il partire il venerdì sera e ritornare la domenica mattina, per cui domenica, vista l'età che mi porto, si era totalmente spappolati. Per lunedì si è scoperto che una stronzata, nonostante il tentativo, impediva tutta la postazione di Auto di Shell di andare in onda. Poi ci si è messo in mezzo la sfiga, ossia un blackout elettrico negli ultimi due giorni. Ultimi due giorni in cui quello che è il delirio di Out of the Shell era molto meditato, perché chi ha avuto opportunità di vedere i post degli ultimi due giorni di Out of the Shell forse per la prima volta non avevano immagini, avevano delle piccole criptiche frasi che volevano dare il tempo di riflettere rispetto a quello che poi dovevi andare a dire. Poi tornavi a casa e ti trovavi a nome di candela, e là stare a dire: cazzo, o sono sfigato io, o ci stanno quasi non contrari nei confronti di Out of the Shell perché non si esprime. Ma come dico spesso io, a pugno chiuso il sinistro resistente, noi ci siamo sempre. Ci siamo perché abbiamo deciso di esprimerci e di costruire un percorso insieme, di andare avanti con le nostre discussioni, con i nostri confronti, con le nostre idee. Ed è proprio da questo che mi piaceva partire, da quello che in un modo o nell'altro credo e spero che per tutti di noi di transizione di fase è questa piccola grande scalata di montagna che abbiamo intrapreso e che comunque, se non tutti, se non insieme, ma qualcuno di noi in cima arriverà. accident in his bed, the wretched sleep of the undead, a slow parade of fake friends, the long dull sleep that never ends. Altro dubbio che mi attanaglia questa sera è quello che fare esattamente tra 20 minuti. Auto di cielo ormai, come tutti quanti sanno, al momento di decidere di ritornare, usando un termine un po' forte, nel momento in cui ha scelto di rinascere dopo 7 anni di silenzio, aveva davanti a sé un 24 ore di una giornata per poter decidere quel 120 minuti da dedicare al proprio delirio. Chi ha vissuto in un modo o nell'altro tutto questo percorso e in questi anni sa che la scelta difficile di esprimersi dalle 23 all'una delle 23 di un giorno, all'una del giorno dopo, era una cosa pensata, era l'essere l'ultima cosa che avveniva durante una giornata e contemporaneamente la prima cosa che esisteva nel giorno dopo, quasi a bilanciare dentro se stessa attraverso questi due orari un conflitto che comunque nel momento stesso in cui si apriva questo microfono si realizzava in quel turbinio immenso di voglia di esprimersi, di rappresentare e dire. Oggi è un giorno particolare, perché allo scoccare della mezzanotte, nell'ennesimo atto di protesta, come tanti, in silenzio stanno avvenendo e si stanno reprimendo. In questo nostro paese, intendo dire in Italia, non mi allargo al mondo, pure se il web ti fa parlare al mondo, perché andiamo molto vicino a noi. Dalla mezzanotte c'è un appello che per 24 ore anche il web dovrebbe stare zitto. Potrei avere un'opportunità, considerando che domani è venerdì, per cui poi il sabato uno non si deve alzare presto per andare a lavorare, perché poi per poter vivere, per poter mangiare devi lavorare. E spesso e volentieri c'è chi fa uno, due, tre lavori, chi li fa in nero, chi li fa in tutti i modi, per cui c'è solo chi ha soldi che di questo non si preoccupa. E spesso e volentieri rinnega tutto questo. Ho due scelte davanti a me. La prima è proseguire. L'altra Sweating. L'altra, prima di dirla, vorrei esprimere semplicemente una considerazione. In effetti la devo dire che condivido, quando ho lanciato a quelli che come noi ci chiamiamo transitori, l'idea di cosa fare del contenitore di transizione di fase dalla mezzanotte in poi, ho detto che consapevolmente e coscientemente non ero ancora in grado di esprimere una mia opinione, perché da un lato vi era la voglia di comunque comunicare, visto tutte le vicissitudini che c'erano state in questi giorni e che me l'avevano impedito, considerando che vai, che parli in un orario tardo, praticamente non violavi niente, era una scelta un po' demandata agli altri, a chi gestisce il random della comunicazione musicale. Poi domani non, oltremano non è, ci stanno nelle trasmissioni in diretta, per cui in fin dei conti era una scelta personale e di chi gestisce il random, ma che comunque doveva essere condivisa da parte di tutti quanti. L'unica cosa che effettivamente avevo voglia di comunicare che la cosiddetta legge bavaglio potrebbe colpire anche noi nel nostro modo di esprimerci, nel nostro modo di raccontare le storie, nel raccogliere le storie. E anche perché in questi giorni c'erano due eventi di cui uno ha avuto una sua ramificazione in maniera diversa ancora oggi, e che mi avevano colpito, indignato, e che vorrei approfondire. Uno di questi lo trovate nel post di martedì, nel momento in cui ho messo il link al sito di Fortes Europe, e che riguarda non trovo il termine adatto per non essere banale, la tragedia di quei 250 tra cittadini e cittadine e bambini eritrei torturati in Libia, di cui alcuni di questi pagano l'accordo Libia-Berlusconi, perché basta ricordare che Berlusconi ha pagato Gheddafi pur che si assumesse la responsabilità di torturare senza nemmeno il minimo rispetto umano tutti i rifugiati che sbarcavano sulle coste italiane. E là ce ne stanno alcuni. E civilizzazione mondiale, nel momento in cui si è riusciti ad avere delle testimonianze dirette di quello che stava succedendo. Che poi la stronzata dice com'è che questi avevano un cellulare satellitare, per cui vuol dire che c'era qualche cosa dietro. Cazzo, se qualcuno, ci stanno delle organizzazioni talmente tanto organizzate per denunciare queste deportazioni, che basta che ne sbarca uno in Italia, gli danno un telefono cellulare, hanno un numero e lo chiamano e registrano tutto. Basta spiegargli, nascondi tutto questo in quei 10 secondi che hai l'opportunità di parlargli. Non è difficile farlo. C'è gente che proprio dedica volontariamente la sua vita a queste denunce. L'alternativa che il mondo ha dato a questi è quella che nella legislazione penale italiana è pena alternativa alla detenzione carceraria, ossia lavoro socialmente utile a gratis, quindi schiavo. Tutto sotto la gogna del rimpatrio e quindi della morte. Altra cosa che mi aveva colpito sono le conseguenze di una circolare ministeriale fatta dal governo Prodi. Avvenuta subito dopo la rivoluzione ultra, conseguente alla morte di quel tifoso laziale, mi pare si chiamasse Sartre, ossia che gli organi di polizia nelle manifestazioni e nelle manifestazioni di protesta non dovevano più assumere un atteggiamento passivo, ma potevano reagire e reprimere. Questo ha fatto sì che in tutti questi anni si giustificasse la reazione di poliziotti a che ogni minima frase che venisse detta nei loro confronti partissero subito le manganellate e la repressione. È venuto con il popolo pacifico dell'Aquila, quel nero verde che doveva marciare su Roma per rivendicare il diritto alla sopravvivenza e alla ricostruzione della propria città al di là delle new town mediatiche e delle fiction berlusconiane. Ma che permette di picchiare anche dei lavoratori che protestano e marciano per il diritto alla propria sopravvivenza e alla tutela del proprio posto di lavoro. Ed è per questo che, visto che nessuno ha indovinato qual era l'altra possibilità, è che Out of the Shell di oggi si divide in due parti. Non è